que sia. Tu prova a dirmelo guardandomi negli occhi. Io non lo so, io non lo so, io non lo so, io non lo so. We'll be right back.